radio con noi Mark Cowell, il giornalista di Indie Media, che nel 2001 ha praticamente rischiato la vita sotto i colpi dei manganelli, dei calci, le botte di tantissimi poliziotti, trovandosi all'esterno della Diaz in uno dei momenti, insomma, dell'irruzione. Lui in realtà si trovava all'esterno e è iniziata questa balorda aggressione che lo ha ridotto davvero male, un polmone perforato, costole rotte, è praticamente entrato in coma. Mark ora sta bene e credo, insomma, che abbia anche tanta voglia di capire come andrà a finire questa storia. Si parla di un risarcimento, ma soprattutto, ecco, poi glielo chiederemo, insomma, a lui interessa anche capire se si riuscirà ad arrivare all'unica, forse l'unica, come dire, restrizione reale che potrà essere applicata, insomma, a coloro i quali si sono resi protagonisti dei pestaggi e delle violenze in quei giorni, e cioè l'interdizione dai pubblici uffici per una durata di 5 anni. Marco, come molti, insomma, ci tengono affinché almeno, diciamo, questo aspetto possa essere contemplato all'interno delle sentenze di venerdì. Dunque, salutiamo Mark e io innanzitutto gli chiedo, anche se per lui forse non è facile, sarà, come è stato tante altre volte, faticoso, di raccontarci di nuovo questa storia. Lo chiedo perché comunque pensiamo che una memoria ancora su Genova non si è sedimentata, e non si è sedimentata il fatto che comunque i poliziotti coinvolti siano stati promossi e che invece, ad esempio, c'è il rischio che 10 persone si becchino 100 anni di galera, testimonia quanto bisogna raccontarla ancora questa storia, e vale la pena di farlo, magari collocandola anche sui giusti binari. Quindi lascio la parola a Mark. First, I'd just like to say thank you to Radio Zona Rossa for inviting me to come here today. Beh, come prima cosa ringrazio la radio per essere stato invitato qui oggi. For me, there's been a very long road these last 11 years from that night at Scuola Diaz. E, insomma, ci racconterà questi lunghi 11 anni che dalla scuola Diaz l'hanno portato qui oggi. I think most of my story is very well known, but just to recap, I was very seriously injured and almost killed just outside Scuola Diaz. E, insomma, ci racconterà appunto quello che è accaduto a lui fuori dalla scuola Diaz, malgrado la sua storia purtroppo sia più che nota. I was attacked by many of Cantarini's boys and also, some of the other commanders from Diaz, and it's been a very long and hard battle to convict them. Okay. So I'm here today in Rome, to see the final verdict of Casazzoni. We're only 48 hours away. Quindi ovviamente si trova qui in questi giorni per seguire la Cassazione, sarà qui in attesa della sentenza. So far, everything at Casazzoni is proceeding very well for us. Quindi lui per ora sta pensando che sta procedendo bene, per ora, la Cassazione. All of the police attempts to protect their clients have failed, and all their appeals have been dismissed, so we are expecting a positive verdict. Appunto, tra quello che è stato discusso ieri, non le richieste dell'accusa, c'è la speranza e l'attesa che il verdetto sia positivo. Either way, the court's decision will be very controversial. Anche se appunto sarà estremamente controversa tutto il dibattimento e vedremo la sentenza. I very much hope that Casazzoni will pass a fair verdict. You know, they have much evidence to consider. It is kind of impossible to imagine that Casazzoni will acquit these defendants, so I'm expecting a good verdict. Appunto, sottolinea che si aspetta un verdetto positivo perché, vista l'evidenza dei fatti accaduti, insomma, non può immaginare che la Cassazione possa chiudere non con un verdetto positivo questo processo. Casazzoni is wrestling with the issue of public confidence in the police. I'm hoping they are going to set a high benchmark on Friday, and it will be interesting next week what the Italian government does. Dice appunto aspetta la sentenza di venerdì ed è curioso di vedere quali saranno le reazioni della politica e del governo italiano. I just hope that this current Italian government has the guts to cut out this cancerous core of fascism inside the Italian police. Lui si augura, spera che questo attuale governo possa, diciamo, tagliare la testa a quelle che è il fascismo e gli atteggiamenti fascisti all'interno della nostra polizia. For me, these policemen from Diaz are all powerful, and their power spreads throughout Italy. Okay. You know, ever since that night, you know, many of the Diaz policemen have been promoted, and this has completely, you know, disgusted me. Lui è disgustato profondamente dalla carriera che tutti i personaggi coinvolti all'interno del massacro della Diaz poi hanno fatto nell'arco di questi 11 anni. È particolarmente disgustato proprio da questo. It seems at every stage of the process the Diaz defendants are awarded a promotion. Insomma, sembra che ogni passaggio del processo Diaz non sia stato altro che un passaggio di promozione per questi personaggi. So it's very important that no one forgets what happens at Diaz and that they should understand how dangerous these men are. E quindi è importante che prima che ci sia memoria, che non si dimentichi cosa è successo nella Diaz e che questo processo, insomma, cambi, metta un po' di luce sulla verità e quello che è accaduto. For me, entering Rome is like walking into a lion's den. Into a lion? A lion's den. Cioè? A lion's mouth. Non ho capito. All I'm trying to say is, you know, for me, it's Rome is the home, it's the power base of all of these Diaz policemen, and it takes a lot of courage and strength to come down here and confront. Lui insomma sta spiegando quanto peso ha su di lui il passeggiare anche per le strade di Roma, insomma il centro del potere anche appunto della polizia, del Ministero dell'Interno, di quello che insomma ha palesemente scosso la sua esistenza. Quindi lui insomma ci sta raccontando quanta forza e quanto coraggio ha dovuto mettere per arrivare fino a qui a Roma a aspettare questa sentenza. Currently one of them, Francesco Gratteri, is trying to make himself look good in front of the Italian public, with, you know, being involved in the Brindisi investigation. E sta spiegando come appunto uno dei personaggi indagati, Gratteri, sta giocando questo ruolo, insomma, di far vedere che esiste una polizia buona, insomma, di quanto è un buon personaggio. And for this he has been promoted to deputy chief of police of Italy. E appunto sta parlando appunto delle ultime promozioni da lui ottenute dal governo italiano. Parliamo di Gratteri. From my information, that this appointment has angered the Italian government. It made them angry. The Italian government are quite angry at what Manganelli has done to promote Gratteri. E appunto non ho capito se lui è arrabbiato per il fatto che il governo sta parlando di Manganelli, no? Sì, del il fatto che è stato promosso, e quindi rispetto a questo il governo italiano come si sta ponendo? Lui è incazzato, ovviamente. Manganelli can independently appoint his own deputies, and this is what's happened with Gratteri. However, I think it will backfire. Insomma, Gratteri seguirà la strada di Manganelli, ne sta parlando di queste meravigliose illuminate carriere che vengono, che continuano a proseguire. My opinion is that Manganelli is trying to make Gratteri an untouchable policeman. Ma è appunto del tentativo di Manganelli di rendere Gratteri un intoccabile, uno degli intoccabili. Like Di Gennaro. Come De Gennaro. However, I think you know, Gratteri's promotion has probably angered Casazzoni as well. So I think they will return a guilty verdict against him, and this will prove as an embarrassment to Manganelli when Gratteri is stripped of his uniform and thrown out. Insomma, credo di aver capito appunto della preoccupazione che ha nel fatto che la Cassazione è strozzata da queste poltrone che continuano a essere sempre più importanti e quindi minacciano un possibile verdetto. We shall see if Casazzoni is impressed with the arrogance of the Diaz police. È come se fosse assoggettata all'arroganza della polizia. Senza come. No, I'd just like to speak about a few other issues concerning Diaz. For the last 4 months, I've been in negotiation with the Italian government over my compensation money. E quindi vuole parlare di un altro aspetto della sua storia riguardante la Diaz, perché sono circa 4 mesi che è in una trattativa con il governo italiano per quanto riguarda il risarcimento economico per quello che lui ha subito. My expectation next week is for the Italian government to make an announcement that they will settle Diaz and Bolzaneto out of court. E quindi si aspetta che nella prossima settimana ci sia un pronunciamento riguardante appunto i risarcimenti sia della Diaz che di Bolzaneto. While the details are currently confidential, I can say that I hope to sign early next week for my compensation money. Ok, quindi non c'è ancora nulla di ufficiale, ma crede di riuscire, insomma, a firmare, tra virgolette, un accordo con il governo italiano sul compenso che gli verrà dato come risarcimento. Ancora non c'è niente di ufficiale. Throughout all the negotiations over this last 4 months, I've tried to set a high benchmark for everyone else. E ovviamente la battaglia che lui sta mandando avanti in questi 4 mesi è quella di alzare la quota, insomma, economica di risarcimento per tutte le vittime della Diaz e di Bolzaneto. Setting up an out-of-court compensation process has been very complicated and difficult. E appunto dirà che sarà un processo molto complicato, molto lungo, io ho aggiunto probabilmente molto lungo. Also I should speak about you know, the European Court of Human Rights. E forse dovremmo parlare anche un po' della Corte Europea per i diritti umani. This Strasbourg hangs over Casazzoni. Casazzoni, you have to think about what Strasbourg will do about Diaz. So, you know, Casazzoni will have to come in with a good verdict to prevent us from going to Strasbourg, you see? Insomma, loro stanno aspettando che il verdetto, proprio in assoluto il verdetto della Cassazione, e poi che sia positivo per potersi presentare a Strasburgo con almeno quello nelle mani. The Italian judiciary want to look like they've acted properly and have come up with a fair verdict for Diaz. Ovviamente l'Italia cercherà di presentarsi magari con questo verdetto, con qualche condanna, per insomma giocarsi la buona faccia davanti a Strasburgo. However, if we're unhappy with the verdict, we will go to ECHR, and it will take probably about another 2 years of process. E insomma, una volta ottenuto il verdetto, ci sarà un'altra lunga strada di almeno 2 anni, insomma, nella Corte Europea. Currently, Diaz qualifies under Article 2, right to life. Article 3, torture and inhumane treatment. Stiamo parlando ovviamente della una presentazione alla Corte di Strasburgo per l'articolo 2, quello del diritto alla vita, e poi dell'articolo 3 che è sulla tortura. Article 5, false arrest. L'articolo 5, quindi gli arresti? False arrest. Falsi, ok. Article 17, right to a fair investigation. Quindi l'articolo 17, il diritto alla una investigation by the see the prosecutor's office has been hampered in their investigation. There's been much obstruction of justice. Quindi durante l'investigazione. Sì, insomma, mi viene la parola in italiano di investigation. L'inchiesta, insomma. And also article 35, right to a fair trial. E l'articolo 25, che è il diritto? A right to a fair trial. Quindi mica ho capito. Fair trial. Aspetta che adesso ce li cerchiamo pure. Sorry guys, we're working on the translation. Il nostro inglese è fantastico, devi avere devi avere tanta pazienza. No, uno stacchetto che ce li cerchiamo. Ritorniamo in voce. No, è chiaro insomma che il lavoro di traduzione simultanea è un lavoro complicatissimo e quindi ovviamente insomma qualche difficoltà ci sta, ma noi la superiamo. Noi lo svolgiamo, siamo tipo in tre a farlo e non ci riusciamo comunque, quindi abbiate infinita pazienza. Parlavamo appunto di ci stava raccontando di come verrà poi presentato a Strasburgo con in mano le carte del verdetto Diaz, che fra poche ore, tra una manciata di giorni ci sarà. E quindi stavi parlando di Strasburgo. You can continue to talk about Strasbourg and the articles. Right. I think Diaz, you know, it's been described by Amnesty International as the largest suspension of democratic rights in a Western country since World War II. Quindi appunto ci diceva come Amnesty International ha definito la pagina della Diaz come la più grande sospensione della democrazia a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. So when Diaz arrives at Strasbourg, it will be one of the most important cases that the court will ever. E quindi nel momento in cui ci presenteremo a Strasburgo sarà uno dei più importanti processi che la comunità europea dovrà affrontare. Senti, io volevo chiedere a Mark, in modo molto generale, visto che comunque purtroppo ha avuto occasione di confrontarsi e di frequentare le aule di tribunale italiane, che idea si è fatto della giustizia italiana e delle istituzioni italiane? What One of the small details of the Casazzoni judgment, which I will be very interested in. È una delle cose più piccole, dei dettagli più piccoli che mi ha incuriosito di questo processo in Cassazione. Is that the Genova Prosecutor's Office is appealing the statute of limitations law. È stato proprio la limitazione della legge nelle giornate di Genova. Now it is well remembered that Berlusconi changed the law, the statute of limitations, to save himself. E quindi ricorda come Berlusconi abbia limitato e cambiato le leggi a favore della polizia e di se stesso. And this changing of the law massively influenced the outcome of Diaz and Bolzaneto in the fact that many policemen walked away without going to jail. Sono ovviamente tutte variazioni di leggi che vengono fatte nel nostro paese che nell'arco di questi 11 anni hanno favorito, insomma, diciamo, l'uscita dai processi e dalle inchieste di molti poliziotti coinvolti nella Diaz. E anche a Bolzaneto. Bolzaneto, sì. I fear unless the law is changed back to the way it was before, anyone else who attempts to prosecute an Italian policeman will fail because they will run out of time. The legal system is very unfair, you know, for the victim. It's balanced in the favor of the attacker. E appunto sostiene che chiunque dovesse ritrovarsi ad avere a che fare con la polizia di Stato, con le forze dell'ordine del nostro paese e diciamo con un processo contro un loro atteggiamento avuto, molto probabilmente fallirà in base sia alle leggi che abbiamo, che non difendono minimamente, lui diceva, la vittima, ma sono molto più dalla parte del carnefice. Now, on the just talking about Bolzaneto for a moment. Per parlare solo per un attimo di Bolzaneto. One of the things that we'll be campaigning for this summer, and we'll be talking with senators in the Rome Parliament about passing a torture law for Italy. Appunto riferendosi prettamente a Bolzaneto sta parlando appunto del fatto che anche a causa di quegli eventi si potrebbe cercare di parlare di una legge sulla tortura nel nostro paese che non esiste. This discussion may form part of a parliamentary inquiry into G8. Ed è una cosa che deve essere discussa dal nostro governo tramite un'inchiesta parlamentare che non I've heard that there are some PD senators calling for a parliamentary inquiry into G8. Insomma, è venuto a sapere, ci sono dei deputati che stanno cercando appunto di chiedere una commissione d'inchiesta parlamentare. However, I will wait until the outcome of Casazzoni, you know, to make a decision about how much we are involved. Quindi anche per quanto riguarda questo, quindi una richiesta di inserire il reato di tortura si potrà fare in altro modo con il verdetto della Diaz in mano. And also if we get a positive verdict, I'll be studying what the Italian government does you know, before we make a decision on this issue. E quindi sta aspettando un po' che ci sia un verdetto della Cassazione che possa in un qualche modo cercare di far capire come il governo italiano si muoverà anche rispetto a prima, insomma, del verdetto. And finally I just wish to speak about the 10-100 campaign. E per concludere ci tiene a parlare della campagna 10%. All of us from Diaz support the petition. Tutti noi coinvolti nella Diaz supportiamo questo appello e la petizione del 10%. We have come to the conclusion that at Genova there was one law for the police and one law for the protesters. L'unica conclusione che abbiamo visto fino adesso per Genova è che esiste una legge per i massacratori, una per i manifestanti. It is a massive imbalance for a man like Gratteri and for his long list of crimes you know, only to go to jail for possibly 2 years. When compared to some of the protesters who are getting 15 years for breaking a window. Sta ovviamente parlando di come si può rimanere sconvolti se si prova a fare una comparazione tra un Gratteri che con il suo lungo lista di reati insomma rischia e non li farà un massimo di 2 anni di carcere, e se lo compariamo a quello che hanno chiesto per i manifestanti, quindi una richiesta di 15 anni di carcerazione per determinati eventi, insomma è sconcertante. I mean, I will, you know, try and come back to Rome on July 23rd for that Cassazzone verdict and see what the, you know, the Diaz group can do to assist. E lui tornerà di nuovo a Roma, insomma, quando ci sarà il 13 luglio, 13 of July, per la Cassazione dei compagni accusati, insomma, nel processo di devastazione e saccheggio, che sarà il 13 luglio. Last thing I wish to say is that, you know, if you wish to come down to Piazza Cavour on Friday evening, you know, people are welcome to stand outside and, you know, to hear the verdict when it's announced. E quello che lui si aspetta e invita che si faccia è che venerdì si stia sotto la Cassazione ad aspettare, ovviamente la Cassazione in Piazza Cavour, ad aspettare tutti insieme quanti più possibile questo verdetto del processo Diaz. Grazie. No, grazie a te Mark, infinitamente. Va bene, allora ringraziamo Mark per questa intervista. Ieri peraltro c'è stato anche questo spiacevole episodio della maglietta, insomma, non so se voleva anche su questo dire qualcosa, visto che non l'ha fatto, non l'ha potuto fare in qualche altro posto, magari gli diamo noi l'opportunità di farlo. What happened yesterday morning was that I cannot afford to buy a suit at the moment, a shirt and tie, so I'm walking around in very dirty jeans and a couple of smelly t-shirts at the moment, so... Insomma, non era nelle condizioni igieniche migliori, quindi cercava dei vestiti puliti e nuovi. And this did not impress the Digos captain. Per insomma, ecco, non catturare l'attenzione più di quanto già ne catturi della Digos. I mean, when I was walking up the steps and 6 Digos policemen descended on top of me and tried to stop me from entering. Yeah. E quindi dice, è stato circondato da 6 impiegati della Digos, non mi veniva il termine, e sulle scale della Cassazione cercavano di fermarlo all'ingresso. They thought my t-shirt, Diaz no more. E indossava la maglietta con scritto Diaz mai più. Was a form of protest. Come una forma di And protesta. I had to remove my t-shirt. E ha dovuto togliere la sua maglietta. And if I didn't, I would be arrested. Perché se non l'avesse fatto sarebbe stato arrestato. So after some quite frantic phoning with my lawyers to get them outside at Cassazzone, which is quite difficult because of the phone reception, finally after 15 minutes Massimo Pastori came out and got me released, in inverted commas, and we but unfortunately you know, all my stuff was taken off me, including all my food and water, you know, and I'm just shocked at my treatment. I think you know, being a plaintiff from Diaz and having a lawyer is enough guarantee to Cassazzone for our behaviour, when none of us are going to mount a protest inside. So Digos are very misplaced with their thinking. Insomma, sta raccontando quello che gli è successo dopo essere stato circondato dai 6 personaggi della Digos, che gli hanno intimato appunto di svestirsi se non sarebbe stato arrestato. Lui ha chiamato il suo avvocato, che era all'interno della Cassazione perché sta seguendo il processo Diaz, in quel quarto d'ora in cui ha atteso, diciamo, un tra virgolette un lasciapassare del suo avvocato che l'ha andato a prendere. È stato spogliato e gli hanno tolto tutti i suoi effetti personali. Insomma, lui raccontava ma per chi era lì ieri in Cassazione era palese, cioè insomma raccontava come tra virgolette il fallimento dell'idea della Digos, che pensava ad una protesta quando lui era lì all'interno con il suo avvocato e ha tutto il diritto di esserci. Beh, ieri quella piazza in 30 secondi si è blindata per una semplice conferenza stampa, eravamo circondati da blindati, quindi immagino tentare l'ingresso per uno di noi in Cassazione con quella maglietta poi cosa poteva creare a quel livello di tensione già inutilmente altissimo. Vabbè, ma I'm going to attempt on Friday to walk into Cassazione wearing that t-shirt, and hopefully with the support of everyone in Piazza Cavour, and I'd like to see the Digos attempt to stop me again. E lui si aspetta che venerdì riaccada, si ripresenterà in Cassazione con quella maglietta e spera che ci saremo in tanti fuori, e verrà rifermato dalla Digos, ormai è tradizione penso del suo arrivo in Italia. Va bene, speriamo di no, insomma, speriamo soprattutto che venerdì Mark possa avere soddisfazione, perché poi insomma dopo tanti anni credo che sia importante per lui, come tutte le persone che a Genova hanno subito in modo pesante insomma atrocità di ogni tipo e che se le sono portate a lungo insomma nella memoria, nei loro occhi, probabilmente nei loro sogni. Beh, speriamo insomma di poter chiudere questa pagina in un modo così, io dico leggermente positivo, perché poi alla fine insomma ciò che è successo dovrebbe essere patrimonio insomma di tutto questo paese. La cosa importante dovrebbe essere che tutto il paese prenda coscienza di quello che è successo, e questo chiaramente se una sentenza positiva per Mark e per gli altri esce fuori, insomma, non possiamo che gioire. Soprattutto noi però ci attendiamo e speriamo che possano riacquistare piena libertà, insomma, i 10 imputati che sono rimasti per i fatti di Genova, che venga realmente cassato in modo definitivo questo reato di devastazione e saccheggio. Ci aspettiamo una sentenza politica, d'altronde è normale che così debba essere, perché poi insomma sono investiti di responsabilità e pesanti personaggi pubblici importanti, ma speriamo che non sia politica dal punto di vista dell'accanimento nei confronti dei compagni e delle compagne imputati e imputate, anche se purtroppo insomma il reato di cui vengono accusati è di partenza un reato di discrimine profondo, insomma, in quanto colpisce esattamente laddove deve colpire, cioè nel dissenso. Si è sviluppato soprattutto attraverso i fatti di piazza, rappresenta un deterrente oggi sicuramente alto affinché ogni forma di contestazione si tenga e non diciamo sconfini ed ecceda, e quindi può rappresentare purtroppo questa sentenza anche un monito per le lotte future. Quindi anche per questo è importante sostenere i compagni e le compagne che sono accusati di devastazione e saccheggio, e fare in modo che da qui a metà luglio questa campagna monti sempre di più in città, che se ne parli sempre di più.